Buongiorno a tutti. Sta per cominciare il cammino di Gigi D'Agostino. È mica un giochino. Eccolo, è arrivato il maestro. Signore e signori, Gigi D'Agostino. Questo è un cammino ritmato, musicato, ritmato. Ciao, sono Gigi D'Agostino e questo è il mio cammino. Si sente? Chiappa la penna e scrivi il numerino. Il cammino di Gigi D'Agostino. 3, 3, 3, 6, 4, 6, 7, 6, 6, 2. Cammino di Gigi D'Agostino, una buona occasione per diventare tamarri. Questa sera, sabato 25 novembre 2006, Gigi D'Agostino suona in Liguria. Discoteca Disco Disco. Vado Ligure. Savona. Ci vediamo lì. Fammela mixata, va. Oh, ma dove sta la musica? Mai esce. Sì, sì, ho capito. Minchia, questa versione fa su Saudi. La danza è una poesia in cui ogni parola è un movimento. Mata Hari. Mata Hari. Precisazione. Il cammino di Gigi D'Agostino. Benvenuti nel mondo che non c'è. Le storie più errate sono quelle che pensiamo di conoscere meglio e quindi delle quali non sindacchiamo e di cui non ci poniamo più degli interrogativi. Stephen J. Gould. Cammino del Gigi D'Agostino te caccia via lo spirito maligno. Lasciati andare, se per te la prima volta, lasciati andare. Capito come? Il cammino di Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Thank you.

Gibino, lui è Gigi D'Agostino. Oh, su un disco non c'è Gigi D'Agostino. Vabbè, scietto. Non è che siamo qui a snocciolare, Le dediche per il cammino di Gigi D'Agostino devono essere complete di mittente, destinatario e il tuo pensierino. Quindi, attenzione, non sbagliare l'operazione. E come disse Amleto, formula la dedica in modo completo. Questa sera, sabato 25 novembre 2006, Gigi D'Agostino suona in Liguria. Discoteca Disco Disco, Vado Ligure, Savona. Cominciamo ad andare. Cominciamo piano piano. Scrivi il numerino. Il cammino di Gigi D'Agostino. 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. Ogni giorno, all'ora sesta, c'è la musica che pesta. Muovi un po' la testa. Dai e poco sta cassa. Percorrendo il cammino di Gigi D'Agostino. Non giochiamo. Dalle piedi polo da solo con la click, faccio single out of hip, un paio anni Marco Chip, Johnny Jefferson da Londra della jam, e con i ragazzoni da Rema e Quinta Dan. A colpi di macchietta si esce dalla giungla, a colpi di macchietta si esce dalla giungla, a colpi di macchietta si esce dalla giungla, a colpi di macchietta si esce.

Colui che accetta la donna come Dio l'ha fatta le rende giustizia. Cale Girban. Sono un uomo diverso, sono un po' perso, ma questo è il mio universo. Excuse me, Mr. DJ. I love the music. Siete sintonizzati sulla frequenza della benevolenza. M2O. Non imparare dai tuoi errori. Impara dagli errori degli altri, così che tu non possa farne. Thomas Hobbes. Il cammino di Gigi D'Agostino. La musica ben detta. Cammino di Gigi D'Agostino. Una musica infinita che racconta la vita. La chiarezza e la giusta distribuzione di ombre e di luci. Goethe. Il cammino di Gigi D'Agostino. Una grande famiglia danzante.

di non realizzare cose complicate, perché tanto poi le complicazioni arrivano da sole. Mel Gibson. Il cammino di Gigi D'Agostino. Se qualcuno mi avesse detto che un giorno sarei stato Papa, avrei studiato di più. Papa Giovanni Paolo I. Che ti serve ormai? Tormentarti per capire molto, farti soffiare. Il 25 novembre si celebra la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. What I can hardly express, my mixed emotions and my thoughtlessness. After all, I'm forever in your debt. And woman, I will try to my inner feeling and thankfulness for showing me the meaning of success. tanto, tanto, tanto.